anche oggi, per fortuna, i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio 24 e Fuori Posto. Sotto il solleone noi siamo qui, irriducibili a Radio 24, no? Diciamo anche indefessi, perché noi siamo qui per accogliere tutti coloro che non ci diranno mai tutto a posto, perché a noi piacciono le persone fuori posto nel lavoro, nell'amicizia, fuori posto in amore. A proposito di amore, in amore. Allora, prima di arrivare ai fuori amore, no? Volevo intanto dire che incredibilmente siamo arrivati alla seconda settimana di programmazione e non ci hanno ancora cacciato, quindi già è un piccolo record. Zitto, no? Non lo dire, perché non vorrei che alla fine della trasmissione arrivasse qua il direttore e ci dicesse: ragazzi, fuori. No, ma che dire, la guardia giurata arriva proprio che ci caccia. Cioè, senti, allora, fuori amore sta avendo un sacco di successo, no Filippo? Sta avendo un sacco di successo perché, Umberto, incredibilmente la tua vicenda personale sta appassionando i nostri ascoltatori. Gli italiani, fra un po' anche tutto il mondo. Cioè, ricordiamolo un momento, cioè, Umberto è disperato per amore perché era innamorato di una donna che aveva considerato e scelto come la donna della sua vita, ma purtroppo non si sa ancora perché questa ragazza l'ha mollato. E allora molti ascoltatori stanno partecipando a questo tuo dramma d'amore. Se uno mi guarda capisce perché. Per fortuna siamo in radio. e non c'è il video. Però allora Umberto, la cosa ha tanto preso i nostri ascoltatori che ce n'è uno che ti ha scritto una mail tutta per te. Si chiama Luca e ci scrive da Viterbo. Senti cosa ti dice. Caro Umberto, anch'io sono stato mollato dalla donna che amavo. Come te. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. È successo dopo 5 anni, da un giorno all'altro. Ero disperato come te, Umberto, e ho fatto di tutto, ma proprio di tutto per riconquistarla. E alla fine ce l'ho fatta. Sì, ma lo sai come è andata a finire? I primi 10 giorni in cui siamo tornati insieme sono stati di pura felicità. Dall'11° giorno ho capito che non me ne fregava più niente. Il mio consiglio, Umberto, è questo qua. Dimentica, volta pagina, le minestre riscaldate non sono mai buone. She may be the beauty or the beast. Attimo di commozione. Ma Luca, vero? Luca da Viterbo. Luca ci ha scritto ai fuori posto, che c'è la radio24.it. Esatto. Allora, guarda, io posso capire Luca, anche perché quando vieni lasciato, no? Ovviamente se ci tieni a quella storia stai male, no? Quando io sono stato lasciato, in realtà me lo dicevano tutti, no? Mi dicevano: no, ma non ti preoccupare, tanto poi, perché ovviamente qual è, se vieni lasciato, qual è la cosa che vuoi di più nella vita, no? Ritornare, no? Certo, quindi, come ha fatto Luca, che voleva soltanto quello. Perché ami la tua lei, no? O ami il tuo lui e vuoi ricongiungerti, no? Dici basta, abbiamo sbagliato, ho sbagliato, ricominciamo tutto da capo, no? In realtà tutti mi dicevano, i miei amici, mia mamma, i miei parenti, tutti dicevano questa cosa che dice Luca, no? Guarda che poi alla fine, anche tu me lo dicevi, no? Dicevi guarda, questa cosa non funziona perché quando uno si lascia, no? Si rompe qualcosa. E poi è la classica minestra riscaldata, no? Cioè, nel senso che anche. Sì, non ha più sapore, è una cosa che non funziona. Quindi, più. Dici: sì, è vero, quando torni, tutti mi dicevano, no? Mio cugino, il mio migliore amico, anche te mi dicevi: sì, sai che succede? Tu torni con quella persona, quando ritorni è bellissimo perché azzeri tutte le cose che non andavano nel rapporto e quindi provi un istante di felicità che possono essere una settimana, 10 giorni. Luca ha detto 10 giorni. I famosi dieci giorni di felicità e poi tutto torna come prima, no? E quindi dicevano è inutile che torni perché passi 10 giorni di felicità e poi alla fine tutto torna come prima. Ma me lo dicevi pure tu, ti ricordi? L'ho sempre detto, no? Ma io posso dire una cosa? La cosa che rispondevo a tutti, anzi, e lo dico anche qui ai nostri radioascoltatori, cioè è vera sta cosa, no? Però io dicevo, no? Pensavo e continuo a pensarlo, no? Ho capito, ma io voglio tornare perché almeno vivo 10 giorni di felicità. Poi si vedrà, capito? Cioè poi capiremo, cioè nel senso che intanto datemi questi 10 giorni di felicità, poi chi vivrà vedrà, anzi approfitto no, per lanciare un appello a chi ci sta ascoltando per dire voi siete tornati con la vostra ex, con il vostro ex e come è andata a finire? Avete vissuto, avete provato 10 giorni di felicità, un mese di felicità e poi è tornato tutto brutto come prima oppure insomma ora siete felici e contenti, il famoso "e vissero felici e contenti"? Ditecelo. Minestra riscaldata, oppure come cantava Vasco Rossi, ti ricordi Umberto? Un letto ormai disfatto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai. Lo sanno tutti. Capito qual è il rischio, Umberto? Sì. Il letto un po' disfatto. C'è appena scritto Roberta, anzi dico, se i ragazzi della regia, se Andrea me la può chiamare. Che ci racconta Roberta? Sì, Roberta ci scrive, io finalmente ho detto no al mio ex con una storia incredibile, infatti sono curioso di capire e di ascoltare da Roberta questa storia incredibile. Ci dice, finalmente l'ho mollato, no? E sono contenta perché finalmente mi sento libera, no? Ma sta qui con noi Roberta? Sentiamo... Roberta? Ciao Roberta, buongiorno. Ciao, buongiorno, come va? Bene, bene Roberta. Ci racconti la tua storia, tu come mai hai mollato il tuo ragazzo? Dopo quanto tempo? Vabbè, in realtà l'ho mollato, ma è come se mi avesse mollata lui, piccola parentesi, perché diciamo che i modi hanno portato poi alla mia scelta, alla mia decisione un po' triste. Cioè, quali perché... modi? Che faceva? Allora, intanto, piccola introduzione, noi ci siamo conosciuti in vacanza, eravamo all'epoca... appunto sulla stessa spiaggia, ci siamo incontrate, è nata questa passione, questa cosa molto bella, così eccola. Dopodiché abbiamo anche replicato le vacanze insieme, è passato l'inverno, poi diciamo, tutto molto bello, e poi che succede? Tutto molto bello. Dopodiché questa persona ha cominciato a manifestare qualche segnale di incongruenza, no? Quindi classici atteggiamenti, ci sono ma non ci sono, spariscono, da considerare che era una relazione diciamo a distanza, perché io ero su Milano, lui era su Reggio Emilia, quindi non proprio nella stessa città. Neanche lontanissimo. Quando è che ti sei sentita fuori amore in questa storia? Mi sono sentita fuori amore quando fondamentalmente lui, per cercare di recuperare, prenota questa vacanza a Miami. Quindi eravate in crisi, giusto? Ma eravamo in crisi, in realtà lo stavo diciamo lasciando io, perché comunque okay. Lo stavi accannando. La mossa da disperazione ha fatto, la mossa ero è tutto disperata. Per tutto. Ero disperata anche. Quindi lui per ritornare... Il classico gesto di effetto, ti prendo questi voli, andiamo a Miami una settimana, 10 giorni, vabbè, ok. Ovviamente io ero lì tutta innamorata, dico, ah, che bello, che figata, ha preso i voli, bello, è bello. Eri felice, eri felice in quei giorni? Ero felice anche perché aveva addirittura... Lei era felice. Ma siete partiti o no per Miami? Siamo partiti per Miami. E com'è andata Miami? A mezza tragedia, però non è tanto come è andata la vacanza in sé, è il fatto che io, nonostante lui avesse preso questi voli, sì, e avesse quindi fatto il gesto anche di prenotare l'albergo, insomma, quindi organizzare, tutto, fare il tour operator di turno, molto bravo, ho sempre avuto per mia abitudine quella di non stare lì con le mani in tasca, nel senso non è che sto lì, mi offri tutto tu. Diciamo che io durante la vacanza tiravo fuori la carta di credito per il pranzo, tiravo fuori la carta di credito per la colazione, insomma, comunque cercavo di bilanciare queste spese, sì, tra virgolette. Poi, tutto questo poi... sembra molto bello, però. Qual è il problema? Molto bello. C'era un particolare che, essendo lui un commercialista, stava sempre lì a raccattare questi scontrini, prendeva gli scontrini di qua, gli scontrini di là, che tu sei in vacanza, l'ultima cosa che fai è tenere lo scontrino. Cosa fai? A cartocci e cestini lo scontrino, di solito, appena te l'hanno praticamente consegnato. Lui conservava tutto e io dico, ah, che carino, chissà, forse fa la collezione, vuole ricordare la data, l'orario del nostro fantastico invece momento. Poi? Invece poi torniamo a ognuno appunto a casa sua, a Milano, io, lui a Reggio Emilia. Il giorno dopo praticamente l'atterraggio, il rientro in patria, mi arriva una mail. Ma con siete tornati fidanzati o sfidanzati? No, siamo tornati fidanzati. Ah, fidanzati. Tutto comunque, bello, d'amore d'accordo, tutto bellissimo. Sì, più o meno, diciamo. Cioè, vabbè, poi siete tornati? Siamo tornati e praticamente io stavo lì in ufficio, già la pronta che lavoravo, mi arriva questa mail, ah, carino, mi ha scritto una mail. Apro questa mail, c'era un fantastico file Excel in cui lui aveva suddiviso in due colonne le spese che aveva sostenuto lui e quelle che avevo sostenuto io. Un vero ragioniere. Ma comprese anche i voli. Cioè lui aveva comprato i voli, ricordate? Ma in realtà anche i voli erano inclusi in questi calcoli, quindi non erano gentilmente offerti. Rimaneva un delta diciamo, una discrepanza economica di 1036 euro e gentilmente lui mi chiedeva di fargli questo bonifico di 1036 euro. E tu gliel'hai fatto sto bonifico, Roberto? Io sono un imbecille e ovviamente gliel'ho fatto. Di 1036 euro? 1036 euro e precise. La causale, precise, perfette, e la causale del bonifico era, ricordo ancora, Miami chiocciola love. Quindi un amore da ragionieri. Senti, la domanda che ci fanno anche da casa, no? Sta appassionando questa tua storia d'amore a metà tra economia e amore, no? Beh, siamo su Radio 24, quindi l'ideale è giusto. È giusto, è chiaro, giusto. Sono in linea. La domanda che un po' ci fanno i nostri radioascoltatori è: ma dopo il bonifico l'hai lasciato o no? Allora, ovvio che dopo il bonifico per me era sostanzialmente, la mia volontà era chiuderla, però no, non posso mentirvi, non mi sento di mentirvi. Gli ho dato poi un'altra possibilità che è andata male, però diciamo perché che ti hai fatto un altro file Excel, ti ha chiesto altri soldi. No, perché ha prenotato un altro weekend da un'altra parte, tipo un mese dopo. E tu a quel punto che hai detto, che facciamo, anticipiamo subito le spese e le dividiamo? A quel punto mi sono organizzata con una mia amica, mi sono organizzato e ho detto ok, vabbè, dai, facciamo che ci incontriamo in quel posto, vediamo un attimino, ma comunque le cose ormai erano rotte, quindi è stato un weekend tra amici, non soltanto io e lui. Vabbè. Quindi tu alla fine non eri più innamorata di quest'uomo? Ma non puoi essere innamorata di un taccagno tizio, io penso penso che sia una delle cose alla più fine, drammatiche. Alla fine c'è un detto, no, caro Filippo, no? Dimmi se sei d'accordo anche tu, Roberta. I soldi non fanno la felicità, ma aiutano molto, giusto? Sì, vabbè, certo. Parecchio aiuta. Parecchio. Da allora ti sono successe altre situazioni strane o no? No, da allora ho capito che se conserva qualcuno uno scontrino devo scappare a gambe levate. Deve scappare, cioè, quindi se chiede uno lo scontrino e se lo mette in tasca, tu dici scusa, vado un attimo a comprare le sigarette e poi... Ah, facciamo così, Roberta, noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie, Roberta. Entri tra i fuori amore, tra i fuori posto, tra gli amici di Radio 24, no? Certo. Un consiglio, Robè, col prossimo fidanzato emetti fattura. Faccio fattura di te? Fai fattura. Almeno ti puoi scaricare l'IVA, esatto, no? Esatto. Avete ragione pure voi, dai. Vabbè, dai. Dai, ci sentiamo presto, ormai sei diventata amica dei fuori posto. Dopo sta storia incredibile, sta storia di fuori amore incredibile, cioè, insomma... Fuori amore, fuori cassa. Sento fuori... che ti richiameremo. Intanto grazie. Grazie, ciao, in bocca al lupo per le future storie d'amore. Grazie ragazzi, un bacione. Ciao. Hai capito questo preciso, quei conti, o fa l'Excel, Umberto mio? Da bravo ragioniere, no? Ha detto, riequilibriamo il rapporto, mi devi fare un bonifico di 1036. A me mi sciocca, sai che cosa? Il 36 euro. Cambiamo argomento, io so che adesso abbiamo in collegamento con noi una persona che ha trovato il suo posto nella vita con molto coraggio. Sì, caro Filippo. Si parla in questi mesi, in realtà da un po' di anni a questa parte, no? Del fenomeno Gomorra, della malavita, no? Che ormai non è solo a Napoli, in Sicilia, in Calabria, ma va, no? Verso il nord attraverso i colletti bianchi, no? Investe nella finanza, nell'economia. E ci sono, no? Uno su tutti, il libro di Roberto Saviano, Gomorra, che è stato un grande bestseller. Il film, no? Il film, la serie. E la domanda ricorrente, anche a me, che sono di quelle parti della provincia di Napoli, di Torre del Greco, mi viene sempre chiesto, ma dimmi la verità, no? Quello che vediamo in TV attraverso il film, la serie e tanti altri racconti che ci fa la stampa, la cronaca, è vero oppure frutto di fantasia? È vero o è frutto di fantasia? Te lo chiedo anche e adesso. E ti dico che è ovviamente tutto vero. Chiaramente vengono cambiati i nomi, ma molti episodi, no, vengono tratti da storie vere. Certo. E quindi oggi abbiamo l'opportunità, no, di capire se il fenomeno Gomorra, no, esiste realmente, no, anche nella vita di tutti i giorni, no? Perché oltre Roberto Saviano, che per me è un eroe nazionale, perché attraverso il suo libro ha fatto emergere dei fatti di cronaca molto gravi. Oltre lui ci sono tanti altri giornalisti di strada, perché cercano di battere la strada, di scovare la notizia, e spesso subiscono minacce dai clan o dai boss della zona, no? Quindi adesso parte il nostro momento fuori legge. Ah, è veramente un personaggio incredibile. Sì. Sembra un personaggio non uscito dalla serie, in realtà. Dalla serie. Invece esiste, per fortuna, vive, vegeta nella realtà. Ed è anche una ragazza, perché si chiama Luciana Esposito ed ha 32 anni. Ma questa ragazza ha scelto di vivere, come dici tu prima, Napoli in prima linea, la parte più difficile di Napoli, cioè le periferie di Napoli. E lei dirige un giornale online che si chiama Napolitan e che si occupa proprio della città di Napoli in generale, ma in particolar modo delle periferie che vivono questa storia complicata, che subiscono le pressioni, le vessazioni, spesso anche dalla camorra. Luciana è una giovane giornalista che sta attraversando un momento molto difficile, perché ultimamente è stata minacciata da uno dei clan più efferati, i Barbados. E Luciana oggi ha scelto di essere qui con noi a Radio 24 ai Fuori Posto. Grazie Luciana, ci sei? Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti. Ciao Luciana, buon pomeriggio. Innanzitutto veramente complimenti per il tuo coraggio. Già è difficile fare il giornalista d'inchiesta a Napoli, ma se sei una ragazza penso sia complicato ancora di più, no? Sei ancora più tosto. Soprattutto se sei una ragazza esile, quindi... Sei pure esile, quindi non ti puoi manco difendere quando te menano, insomma. No, assolutamente no, non ci provo neanche, perché proprio non ne ho la forza, quindi è una lotta troppo ad armi impari, quindi gliela ho vinta proprio così. Oh, raccontaci bene, soprattutto ai nostri ascoltatori, racconta, cosa fai tu, di cosa ti occupi? Io cerco di dare risalto a quelle realtà che difficilmente vengono raccontate, quindi nella fattispecie io sono particolarmente radicata su una zona calda che è quella di Napoli Est, in particolar modo il mio lavoro si svolge nel quartiere Ponticelli, che è anche il quartiere in cui io vivo, e quindi c'è anche la doppia difficoltà, cioè sono facilmente rintracciabile, sono insomma... persona completamente radicata nel territorio che spesso vado a raccontare. Ecco, di che temi ti occupi? Il mio lavoro è una denuncia sociale, cioè accendo riflettori principalmente sui posti in cui regna il degrado, l'abbandono, quindi cerco anche di attirare l'attenzione dell'amministrazione in quei contesti in cui le persone vivono in una condizione paragonabile a quella del terzo mondo. E oltre quello ovviamente poi c'è un grandissimo lavoro volto a raccontare tutta quella che è la realtà camorristica, soprattutto in relazione a quelli che sono i nuovi fenomeni in ascesa, quindi la simbologia dei tatuaggi, il linguaggio camorristico in relazione ai social network, perché anche attraverso Facebook la camorra spesso invia dei messaggi. Allora Luciana, io ti ho definito in apertura una giornalista di strada, no? Che batte la strada per trovare le notizie, no? E io so che tu frequenti i quartieri proprio per fare un lavoro di inchiesta, di giornalismo d'inchiesta, come Ponticelli, il Lotto Zero, le Case dei Puffi, Scampia, le famose vele, no? Le tristemente famose vele. Dunque, in questi quartieri, no? Dove, che aria tira? So che tu sei stata anche aggredita ultimamente, no? In uno di questi quartieri. Sì, diciamo che le due aggressioni che ho subito sono maturate in un contesto abbastanza inverosimile, perché era il posto nel quale io lavoravo più spesso, che è il Parco Merula di Ponticelli. Io quasi tutti i giorni per 6 mesi ho frequentato quel contesto proprio per denunciare il degrado e l'abbandono di quel luogo, e la mia presenza a un certo punto è risultata particolarmente scomoda, perché l'attenzione che si stava manifestando su quel posto, ovviamente per chi aveva interessi di altra natura, non era cosa gradita. In caso l'aspetto singolare è stato che io non ho ricevuto minacce, mi hanno direttamente aggredita, e l'aggressione è avvenuta da parte di un ex affiliato del Clan Sarno, che è reduce da 10 anni di carcere, sua moglie, che a sua volta è imparentata a uno dei clan egemoni della zona, e la loro primogenita, che era anche incinta quando mi ha aggredito. Porca miseria, quindi sta aggredito un'intera famiglia. Senti, praticamente sì. Ascolta Luciana, e prima dicevi una cosa molto che mi ha molto incuriosito, no? I nuovi codici di comunicazione della camorra, sì. I social network e i tatuaggi, ci spieghi un po' meglio? In pratica, attraverso dei messaggi che sui social si diffondono a macchia d'olio, molte volte ci passano anche sotto gli occhi e noi non ce ne rendiamo conto, però ci sono tante pagine che nascono inneggiando proprio agli ideali della camorra e che vengono condivise, diffuse, frequentate, battute da tantissimi ragazzi che in maniera inconsapevole si avvicinano a quell'ideologia e che dal mondo virtuale poi vengono materialmente reclutati dai clan. Cioè sta succedendo, quindi i clan assoldano nuove leve, no? I cosiddetti baby killer attraverso Facebook o altri social network, no? Anche sì, attraverso i social. Senti, ma una come te, no? Io posso capire l'eco che ha avuto Saviano, ma una come te, una giornalista giovane come te, no? Perché dà fastidio in certi quartieri difficili? In fondo tu hai un sito online di informazione che è nato da poco. Perché è stata aggredita, perché è stata malmenata, no? dal boss della piazza? Perché era un simbolo, perché sono un simbolo. O da quello che diceva di essere il boss del quartiere? Vabbè, questo lo andremo a vedere poi davanti alla legge, infatti, delle persone per bene. Esatto. Poi la legge farà il suo corso. Sì. E io penso che nel mio caso, proprio per il fatto che in quella circostanza non sono... l'aggressione non è stata seguita, preceduta da minacce, ma c'è stato il desiderio diretto di manifestare agli occhi delle persone che hanno assistito a quelle aggressioni che io venivo malmenata, quindi una sorta di rivendicazione di forza e di legittimità da parte di queste persone. È proprio questo il messaggio che hanno voluto inviare a me e a chiunque assistito a quelle scene, che loro erano più forti, non di me, ma degli ideali dei quali io mi faccio portatrice. Ecco Luciana, ma tu hai parlato di un'aggressione di fronte ad altre persone, no? Ma chi assisteva a questa aggressione? Ti ha difeso? No, no, ovviamente, ma questa è una scena vista, rivista e stravista. La mia speranza, anzi il mio sogno più grande, è proprio che nel momento in cui il processo prenderà piede, qualcuno decida spontaneamente di venire a testimoniare, perché sarebbe un atto importante. Ecco, approfittiamo anche noi, no? Se c'è qualcuno che ha visto, no? Per lanciare un appello dai nostri microfoni, se c'è qualcuno che ha visto come sono andate realmente le cose, no? Che si faccia avanti e insomma dia una mano a Luciana, che lei la faccia, sì, ce la mette, lei è coraggiosa. Senti, purtroppo le tue vicende non finiscono qui, no? Perché ultimamente abbiamo letto sempre dai vari siti di informazione che sei stata aggredita, no? Sei stata aggredita e poi minacciata, soprattutto anche con minacce molto pesanti, dal clan dei Barbados, no? Giusto? Sì. Spieghiamo cos'è questo clan in pochissime parole. Che cos'è il clan dei Barbados? È un gruppo di ragazzi che viene riconosciuto per queste barbe molto folte, modello ISIS, che esibiscono e che hanno proprio nella loro ideologia l'intenzione di in qualche modo incarnare gli ideali dei quali i guerriglieri dell'ISIS si fanno portatori. Tant'è vero che l'ultimo caduto in un agguato di camorra, che è proprio Raffaele Cepparulo, era soprannominato Ultimo, perché lui si definiva l'ultimo guerriero, l'ultimo prescelto, cioè colui che avrebbe dato luogo a questa rivoluzione e che avrebbe scardinato tutti i clan esistenti a Napoli per diventare il re della camorra. Di cosa si occupano questi Barbados? Che traffici illegali compiono? Beh, loro nascono sulla falsa riga della paranza dei bimbi di Forcella, quindi sono un gruppo di minoranza, non sono un clan di spessore, e infatti loro hanno combattuto questa faida, che è la più recente, quella che tiene banco da un annetto tra i vicoli del centro storico, da perdenti. Lo dicono i numeri, lo dicono anche insomma tutte le vicende che si sono susseguite. E in questo momento tutte le attività e tutte le organizzazioni criminali sono concentrate sul dominio delle piazze di spaccio. Adesso la droga è sicuramente il business che fa più gola a tutti in assoluto. C'è anche tutta una simbologia dei tatuaggi e di come ormai i clan, che mi sembra che i nuovi clan che cercano di spartirsi il territorio, hanno un'età media molto bassa, no? Sono molto, sì, giovani. Allora, siccome l'argomento è veramente molto interessante, e infatti insomma continuano ad arrivarci un sacco di messaggi di solidarietà, e ci scrive Francesca, Luciana, siamo tutti con te, anche Manuel dice vorrei sposarti solo per il coraggio che hai dimostrato. Continuano ad arrivarci messaggi al 349-2386-666 e facciamo così, Luciana, resta in linea, noi torniamo tra pochissimo e tra pochissimo con noi, chi ci sarà, Filippo? Tra pochissimo ci sarà Don Agnello Manganiello. Che è un prete coraggio. Che è il prete di frontiera di Scampia, sì, diciamo. Sì, sì, sì, che lotta quotidianamente. Tutti no? i giorni contro i clan che operano a Scampia. Lui fa concorrenza alla Camorra, no? Cerca di portarli via dalla strada e li mette nel suo oratorio o nelle sue attività ricreative. Certo, lui cerca di sottrarre i bambini dalla strada, allora, e dalla criminalità, aiuta le famiglie bisognose. Qualche minuto e ritorniamo sempre qui su Radio 24 e Fuori Posto. A tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. I Fuori Posto. Di nuovo qui Fuori Posto con Filippo Roma e Umberto Alezio su Radio 24. Stiamo parlando di Camorra e di coloro che hanno il grande coraggio di raccontarla, questa Camorra, in prima persona, rischiando sulla propria pelle. Una di queste persone si chiama Luciana Esposito, è un fuscello, è una ragazza che ha appena 32 anni ed è magra magra, ma ha una forza e un coraggio da leone che la spinge tutti i giorni a raccontare le periferie di Napoli. Tant'è che Umberto questa cosa non sta molto bene, clan a quanto pare. Eh no, dà fastidio, perché tu puoi fare molto male ai clan, no? Se racconti le loro logiche, le loro dinamiche, no? Giusto, Luciana? Sì, assolutamente. Senti, tu che minacce hai ricevuto dal clan dei Barbados, che è il clan più efferato, no? Dei più giovani, di quelli disposti a tutto, no? Pur di emergere, no? Sì, assolutamente. Tra l'altro le minacce che mi sono giunte sono pubbliche, quindi chiunque può andarle a leggere. E tant'è vero che mi sono giunte tramite i social, cioè sul mio profilo Facebook personale, i parenti di Raffaele Cepparulo, quindi del ragazzo ucciso nell'agguato avvenuto lo scorso 7 giugno nell'otto di Ponticelli, sono venuti a dirmi una serie di cose, nella fattispecie... Cosa ti hanno scritto su Facebook? La madre dice che siamo noi giornalisti che creiamo i camorristi, perché il figlio era un bravo ragazzo, era un angelo e come tale deve essere ricordato, e io non mi devo permettere di infangare la memoria di suo figlio dicendo che era un camorrista. E se scrivo ancora di suo figlio mi viene a fare lo strappamento, cioè l'asportazione manuale violenta dell'utero, davanti alle persone dell'80, quindi nella mia terra, perché tutti quanti ovviamente devono vedere e devono assistere a questo atto di rivendicazione voluto, perché lei la rabbia che prova per la morte del figlio la deve riversare su di me. Ascolta Luciana, è tremendo quello che ti hanno scritto, ma tu riesci ancora ciò nonostante a continuare a fare il tuo lavoro, non hai paura? Assolutamente no, perché la gente del quartiere è la mia scorta in questo momento. Intorno a me c'è una voglia di attaccarsi, di aggrapparsi al mio lavoro, che è una motivazione enorme. La risposta che il quartiere ha dato a questa, anche a questo atto di violenza solo verbale, è fondamentale. Cioè io mi dico, non ho bisogno della polizia, non ho bisogno di scorte, perché non sono mai lasciata sola, soprattutto quando vado nel Rione, nell'8 a svolgere il mio lavoro. Le madri del Rione sono la mia scorta, lo dico con orgoglio. Luciana, ti fa paura, a proposito, parli di scorta, no? È bellissima questa cosa che hai detto, no? Anzi, invito anche i nostri ascoltatori, no? A riflettere su questa cosa, no? La gente è la mia scorta, no? Dimmi una cosa, ti fa paura finire sotto scorta, no? La vita potrebbe cambiarti realmente? Ma io non ci penso neanche, cioè io non posso pensare, cioè vorrebbe dire uccidere la mia libertà, vorrebbe dire veramente togliermi la cosa più preziosa che ho, perché non potrei portare avanti quello in cui credo, il mio lavoro, come lo faccio, quindi non la voglio neanche prendere in considerazione come idea. Senti, perché questi baby soldato, questi baby killer, no? sono disposti a tutto. Leggevo sui giornali che addirittura per uccidere può bastare che un clan avversario gli taglia la strada, oppure che loro, insomma, ricevono quella che loro considerano una scortesia. Addirittura ultimamente è stato ucciso un ragazzo giovane che non c'entrava niente, no? La morte di Ciro penso che sia il punto di non ritorno che deve assolutamente far riflettere dal più alto capo di Stato alla persona più umile chi era del Ciro? Nostro paese. Diciamo, Ciro raccontiamolo. Era un ragazzo di 19 anni, talmente fesso che è morto perché nel bel mezzo di un agguato di camorra ha ben pensato di chinarsi a raccogliere gli occhiali da vista che gli erano caduti. Chi era lì per svolgere il suo lavoro ha visto in quel gesto una minaccia, pensavano che si stesse chinando per raccogliere un'arma, e la cattiveria di questi ragazzi sta nel fatto che non lo hanno colpito in un punto debole, cioè in un punto non vitale, a una gamba, ad un braccio, lo hanno colpito in petto. Ciro è morto con un unico colpo di pistola che gli ha raggiunto il petto. Mamma mia. Senti, Luciana, ovviamente sono racconti molto toccanti e noi ci tenevamo a presentarti, seppur solo in radio, ma poi speriamo che questo incontro possa accadere anche nella vita di tutti i giorni, perché per fortuna oltre te ci sono altre persone, no, che presidiano il territorio, investono il loro tempo, gran parte del loro tempo, sì, no Filippo? Non soltanto i giornalisti coraggiosi come Luciana, ma anche uomini di chiesa, veramente di chiesa, che stanno sul campo, che lottano frontalmente contro la camorra, come Don Aniello Manganiello. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Diciamo Umberto, questa persona che abbiamo con noi in linea non è una persona qualsiasi. Sì, no. A me piace definirlo eroe, no? Io ho conosciuto ormai tantissimi anni fa padre Aniello, perché l'avevo incontrato per caso proprio a pochi metri dalle vele e lo avevo ripreso con una telecamera nascosta in un servizio che stavo facendo. E mi ricordo, mi lasciò il segno la sua reazione, perché quando andò il servizio, io ovviamente coprì le facce, no? Lui mi chiamò, perché seppe che il servizio l'avevo fatto io, ebbe un eco abbastanza importante quel servizio, e mi chiamò e disse: perché mi hai coperto la faccia? Cioè, lui era arrabbiato, no? Di solito sono arrabbiati. Esatto. Perché uno che ci mette la faccia, e poi non in un posto qualsiasi, Doniello, perché tu operi nella roccaforte della Camorra, tu stai a Scampia. Con modalità diverse, poi io cerco di essere il meno peggio, non sono un eroe, cerco di vivere il mio sacerdozio nella maniera migliore, ma anche di vivere la mia umanità, perché prima del sacerdote c'è l'uomo che non si abbassa, che non si sottomette alla violenza, alle prepotenze, alle prevaricazioni. Ecco, la cosa ma cerca di difendere la sua dignità e la dignità degli altri, la dignità di essere uomini liberi in un contesto particolare come Scampia, che ha tutti i problemi possibili e immaginabili, anche se poi c'è anche una sorta di esagerazione sulla lettura che si fa di quel territorio. Infatti, a proposito, sono curioso di chiederti questa cosa, no? Ma cosa ne pensi di una serie come Gomorra, no? Che ha avuto un successo televisivo pazzesco e che racconta proprio Scampia e il suo mondo? Tu che proprio operi lì dentro, che stai in concorrenza e lotta frontale, no? contro la Camorra, cosa ne pensi di questa rappresentazione? Ma guarda, io sono convinto che bisogna raccontare anche il bene. Raccontare solo il male o celebrare il male dà un'idea anche errata di un certo territorio. Chi vede Gomorra, la serie, a Helsinki o a Stoccolma, oppure la vede a New York, si fa un'idea del nostro territorio, del territorio di Scampia, come di un luogo pericoloso, di un luogo dove è bene non recarci, e dà un'immagine altamente negativa. Ma questo non solo a Stoccolma e Helsinki, ma anche io giro per l'Italia nelle scuole, ascolto anche il però è anche vero padre, però è anche vero, no, che a parte i personaggi di Gomorra, ma in realtà, no, poi nella vita di tutti i giorni vediamo che i grandi boss, grandi o piccoli boss o delinquenti di zona, poi fanno tutti una brutta fine, no? Questo in Gomorra, nella fiction, ma anche nella vita reale, perché ovviamente sì, finiscono in galera oppure ammazzati dal clan rivale, no? Sì, sì, la vita del camorrista è una vita di cacca. È una vita che non ha prospettive. Però voglio dire una cosa: nel discorso di Gomorra, di Garrone, ma anche di Gomorra la serie, ma possibile mai che non c'è nemmeno accennato qualcuno che contrasta quel malaffare? Sembra che il malaffare abbia il sopravvento su tutto e su tutti, e che non ci sia più speranza. Allora chi opera in quel territorio si smazza, ci mette il tempo, l'energia, e rischia pure, perché ho rischiato anche io da parte dei Lorusso, dei Capitoni, minacce, rifiutai la scorta negli anni in cui sono stato parroco, e dico, possibile mai che non dobbiamo anche riconoscere anche che c'è gente, che ci sono associazioni, ma anche le forze dell'ordine, che ogni giorno cercano di contrastare. Don Agnello, non sei da solo in questo. Tu stai parlando delle minacce che hai subito, no? E c'è qui con te, non lo sai, te la presentiamo adesso, un'altra persona che altrettante minacce ha ricevuto dai clan, che raccontava, perché lei è una giornalista e si chiama Luciana Esposito ed è in linea qui con te. E io mi complimento con Luciana, mi complimento e le dico di non scoraggiarsi, di continuare. E come è stato per lei, anche per me, chi mi ha dato la forza e il sostegno? Ovvio, il Vangelo, ma mi ha dato il sostegno e la forza anche alla mia gente, alla mia comunità parrocchiale, che si è schierata dalla mia parte, che ha preso le mie parti, che mi ha tutelato e mi ha difeso. Padre, dall'alto della tua esperienza, no? Cosa ti senti di consigliare a una giovane ragazza 32enne che in questo momento è minacciata da uno dei clan più pericolosi? Ma intanto di non aver paura di dire la verità. E poi quello che è importante è creare attorno a sé un movimento di persone che vogliono condividere la sua scelta, il suo coraggio, e seguirla, diventare anche cittadini attivi, responsabili, e mettere in campo iniziative, soprattutto educative, perché qui l'emergenza forte è l'emergenza educativa nei nostri quartieri. Luciana, cosa ne pensi di quello che dice Don Agnello, di quello che ti ha detto? Io ringrazio sicuramente Don Agnello per queste splendide parole. E no, io sono d'accordo con lui, tanto è vero che questa è una realtà che già esiste e si chiama Un Popolo in Cammino. È un movimento che è sorto in seguito alla morte di Geni Cesarano, il 17enne ucciso in un agguato nel rione Sanità lo scorso settembre, e che da lì ha portato avanti una serie di iniziative che hanno attirato tanti liberi cittadini. Tant'è vero che una settimana dopo la morte di Ciro Colonna a Ponticelli è stata organizzata una fiaccolata che ha portato in strada più di 2000 persone. Ok, Luciana, continua così, mi raccomando. Luciana, continua così. Noi dei Fuoriposto e di Radio 24 facciamo il tifo per te, ovviamente. Grazie. Per te e per Don Agnello. Grazie, Don Agnello, di essere stato con noi. Grazie a voi. Continuate così. E continuate per qualsiasi così. Cosa, ovviamente, i nostri microfoni sono a vostra disposizione, no? Sì. Filippo, noi siamo quasi giunti anche per oggi al termine di questa puntata. Torniamo con un argomento un po' più leggero. Sì, infatti, no? Mi sono stupito che di solito siamo un po' cazzoni, invece abbiamo fatto una cosa molto seria oggi. No, e devo dire, sono orgoglioso di dar voce, no? A persone, insomma, che lottano tutti i giorni in strada. Caro Filippo, ci prendiamo qualche istante di pausa, no? Ma torniamo tra poco, giusto? Tra poco, perché c'è un appuntamento molto richiesto, molto importante. I Fuori Posto. I Fuori Posto, Umberto Lezzi e Filippo Rome, due Fuori Posto per eccellenza. Allora, per eccellenza. Allora, ai Fuori Posto @radio24.it ci scrive Francesca da Cagliari, che è una studentessa di economia. Sta per affrontare l'esame di economia politica. Che dice Francesca? Allora, cari ragazzi, sto per avvicinarmi all'esame di economia politica, sono molto spaventato, molta paura, ma avrei bisogno di un ripasso e dei consigli del vostro economista. No, ti prego. Che non te conviene, se no te boccia. No, perché vogliamo rovinare una carriera in erba? Lo so, però evidentemente ci ha ascoltato e si è affezionata a questo nostro personaggio. Quindi vuoi far partire Fuori Economia? Ci stai dicendo? Sì, ti sto dicendo proprio questo. Cioè, non mi dirai che c'è lui? Ci dobbiamo ricollegare Ebbene, con lui? Sì, c'è Ciruzzo Tozzi, il nostro economista. Ci sei, Ciruzzo? Ragazzi. No, senti, no, non ha senso, con collegamento con la Rai. Ma che sta di questo? Ma che dici? C'ho un collegamento con la Rai, ragazzi, per favore. Buongiorno, ragazzi, scusate un attimo, no, mi stanno dando fastidio perché sì, non hanno capito. No, ma che... Ciruzzo, ma che Rai? Rai? Siamo a Radio 24, che stai sto dicendo? Sto con la Rai, ragazzi, sto con la Rai, lasciami stare. Eccoci qua, eccoci. Ma scusa, ma che sei matto, dici, con la Rai? Noi siamo a Radio 24. Oh. Ragazzi, non possono, diciamo, voi non è che poi siete tanti importanti, diciamo. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma stai offendendo? Io che faccio le tournée un po' di qua e un po' di là... Non posso dire che vado a fare questa cosa Radio 24, che diciamo. E ho detto la Rai per spararmi un po' di più di ma cose. Ma scusa, ma cosa abbiamo in meno rispetto alla Rai? Io diciamo la verità, ragazzi, io vi faccio un piacere. Io sono uno che va in giro. No, veramente il piacere lo facciamo noi a te. Cioè, no, parliamo di economia, a me che me ne fotti, sono un cantante neomelodico. Vi do questi consigli. Scusa, che ma sei un cantante neomelodico che non è mai uscito da Napoli, cioè diciamolo. Neomelodico non esce mai, no, perché neomelodico esce. Scusa, che esce da Napoli, fa cantando, fa fare un po' di provincia. Cioè, Radio 24 è una radio nazionale che ascoltano tantissime persone. Ti ascoltano per da Cagliari, da Verona, da Milano. Cioè, fino adesso era ascoltata, adesso non so se come te ascoltato con me, te Ciruzzo è ascoltata. Un po' meno ascoltata. Ma veramente sei ascoltata in tutti i lati, ragazzi. Sì, certo. Ascolta, Ciruzzo, ma banda alle ciance, noi ti abbiamo ingaggiato perché tu sei un economista di formazione liberista, sappiamo, a parte fare il cantante neomelodico. Allora volevo farti questa domanda che preme molto i nostri ascoltatori, no? Perché molti ci chiedono, no? Consigli. Tu, a un risparmiatore tipo, quali titoli consiglieresti di acquistare oggi come oggi? Come titoli, diciamo, quelli là che più importanti sono, più importanti. Sì, quelli là che insomma, quelli lì, insomma, quelli lì, quei titoli che ti permettono di fare un buon investimento. Esatto. Sì, perché poi sì, perché se tu non prendi il titolo giusto è finita. Certo, giusto. E quindi cosa consigli? Puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non c'è il titolo giusto non va avanti, perché è dal titolo che parte tutto. Saggio, pura verità, bravo, pura verità. Bravo. Comunque oggi lo sento in fuori, oggi l'economista che lui viene fuori. E quindi su che titoli ci orientiamo? Il titolo diciamo che preferisco, cioè il titolo migliore secondo me, quale diciamo prendete nota, attenzione, ci sta per dire i titoli migliori. Live, per esempio, quando faccio il CD live faccio Live at Mondragon, che praticamente è un titolo che poi c'è anche il pezzo che faceva Vamos a la playa. Ma questo è cretino, ma Ciruzzo, questi sono titoli di canzoni. Un altro titolo bellissimo, diciamo, che io ho fatto sempre per una mia canzone di classici napoletani, è una voce, una chitarra e una pepata di cozze. Questo anche il titolo. Ma scusa, ma questo è proprio un idiota. Non ho capito niente. Cioè, scusa, non stiamo dicendo i titoli di canzoni, che peraltro. Poi per esempio il titolo proprio più forte del mio disco, diciamo, proprio che l'ho già detto altre volte, lo ribadisco questa volta perché è importante, è la storia della canzone di questa ragazza che si conosce per l'estate, invece di andare in inverno a trovarla, poi lui rimane tutta l'estate sulla spiaggia aspettando lei che torna. E il titolo è: che mi hai fatto venire a fare quest'anno sulla spiaggia quando poi non sei venuta? Mi hai fatto venire per senza niente. Ma è un titolo che dura mezz'ora. Ma comunque, Ciruzzo, noi parliamo di titoli azionari. Ma questo è un titolo, ragazzi, diciamo, di creazione, questo qua non è un titolo moscio, no, è un titolo forte, diciamo, questo, non è che... I titoli musci sono, ti posso dire, Amore sperduto, Cuore particolare, questi sono titoli un po', diciamo, classici. Noi siamo la radio dell'economia, quindi dobbiamo parlare, no, di investimenti, di economia, di titoli. Titoli, SPA. Un consiglio almeno per i risparmiatori, no? Per gli ascoltatori, no? Come possono risparmiare e come possono investire i loro risparmi? Dare i vostri soldi a Ciruzzo Tozzi. No, questo, questo non è una raccolta benefica, cioè non è... No, che disse parlare, come ti permette? Guarda, Ciruzzo... Facciamo l'elemosina qua. Appunto. Voi mi date i soldi e li investo. Come? Sei sempre attento, come investi? Io li do a certi amici, tutto un giro. Voi mi date 1000 euro e dopo un mese io vi do 1500 euro, vabbè. Addirittura un investimento che frutta il 50%. Così tanto, diciamo, come mai frutta così tanto l'investimento? Perché, diciamo, va delle persone che poi un mese dopo vi danno 1500. Ma chi sono queste persone? Questi sono esseri umani come noi, sì, qua, sì, sì, proprio come sì, noi. Dico brave persone o comunque. Certo, se tu mi dai 1000 e io le presto a uno che un mese dopo mi dà 1500, è una bravissima persona. Certo, quindi persone sì, certificate, sì, serie, aziende, certo. Chi sono? Delle società di credito? Uomini, Antonio che sta un po' in difficoltà, mi ha chiesto se Antonio è un mio amico che c'ha delle bombole. Delle bombole in che senso? Bombole di che? Delle bombole di gas. Allora lui mi ha detto: senti, quindi nell'energetico praticamente. Ecco, beh, sì. Allora dice: se tu mi dai 1000 euro, io vado bene, mese dopo ti do 1500 euro. Allora certi amici miei hanno detto: bravo, tu ci dai 1500 euro, se non ti diamo, se non ci dai però le 1500 euro, il gas te lo facciamo scoppiare. Giustamente. C'è una minaccia, c'è una praticamente. Minaccia. Senti, Ciruzzo. Ragazzi, il prestito è prestito, l'investimento è investimento. Cioè, praticamente questo qui minaccia, no? Le persone, cioè è una cosa gravissima. Questa cosa qui ritirala subito, perché potresti trovare i carabinieri. E che dico, anche la guardia di finanza fuori il tuo portone. Sì? Sì. Ho capito. Cosa hai da temere tu con la guardia di finanza? Tu è tutto fatturato, no, il tuo? Io non c'entro niente proprio da vedere con la guardia di finanza. Ah, appunto. No, niente proprio, in che senso che non la vuoi vedere? No, ma proprio io quando vedo viene la guardia di finanza, a me non mi trova mai. Che fai? Dove vai? Tu lo sai prima? Ma che fai spettacoli. Ma tu sai che per ogni tua prestazione, no, devi emettere fattura, perché è giusto che paghi le tasse. Ragazzi, questa cosa te la vogliamo finire? Noi stiamo parlando di economia, ossia di risparmio, o stiamo parlando di prenderla a quei servizi? Cioè, le tasse sono una cosa che... Bellissima, e vanno pagate, giusto? Vanno pagate, ma non tutte quante. Ma come non tutte quante? Non tutte vanno pagate per intero, che stai dicendo? Allora, bello e buono il governo, dice, fate una tassa sull'aria che respirate, noi via dalla mattina ci alziamo e paghiamo la tassa perché respiriamo l'aria. Ma ci funziona, no. Le tasse servono per finanziare i servizi pubblici, come faremo se no? Poi viene la mente critica del cittadino. Allora, fai una cosa, io ci ho provato i giorni scorsi, adesso ci riprovo. Sì. Di questa frase qua, le tasse sono una cosa bellissima, parola di Ciruzzo Tozzi. Le tasse sono una cosa bellissima? Parola? No, non col punto interrogativo. L'età deve essere affermativa, questa cosa. Le tasse sono una cosa bellissima. Vabbè, ma mi state facendo reatto, ragazzi, così. Non lo vuoi dire? Non si può imporre a un cittadino, diciamo, della democrazia adesso con la Costituzione. Però almeno è stato leale, perché non ha detto un cittadino onesto, perché diciamolo, non sei onesto. No, io come io non sono onesto? Ma come ti permette? Io, guardate ragazzi, voi prima mi chiamate, poi vengo a fare il servizio, diciamo, a voi. Poi vi do questi consigli che tutti quanti, grazie ai miei consigli, stanno risparmiando. Non esagerare. Sta salendo e tutte queste cose qua. Poi alla fine viene venite e dite voi che io non sono onesto solamente perché? Perché? Perché io dico, quando paghi le tasse, stai attento che bisogna guardare le tasse. Cioè, se voi portate la macchina e non trovate il posto dove parcheggiarla, scusate, ma come posso mettere io la macchina in un posto e poi prendere la contravenzione? Dove la metto questa macchina? Scusa. In effetti non fa una piega. Non fa una piega. Comunque Ciruzzo, dopo si è salvato in corno. Si è salvato in corno, diciamo. Tutta la giornata, ci mettiamo, ci macchi tutta la giornata, poi finisce la benzina, poi sto in mezzo alla strada e poi mi viene pure la contravenzione, perché sto in mezzo alla strada con la benzina che si è fermata per mezzo a due, non mi dà di posto. Per oggi è esaurito il tempo. Non so se ci risentiremo. Io spero di no, però non lo so se ci risentiremo. Io mi dissocio definitivamente da Ciruzzo. Comunque. Saluta tutti i nostri radioascoltatori. Un abbraccio circolare a tutta Italia, da Milano fino a giù a Napoli. Finalmente un finale ecumenico, no, bravo. Fino a giù a Napoli, cioè, ne so, la Calabria, la Sicilia, niente. Sì, cioè. Certo, anche loro, perché siamo razzisti noi. Hai detto fino a giù a Napoli, cioè. Fino alla Calabria, va bene? Dai. E la Sicilia no, la va Sardegna bene, no. Vabbè, pure la Sicilia, okay. Un saluto isole comprese. Ragazzi, ho messo Val d'Aosta, dai. No, da Milano no, però da Milano no, perché la Val d'Aosta è più su. Allora lasciamola stare, va bene? Perché lasciamola stare? Noi salutiamo noi gli amici della Val d'Aosta. Per il momento la lasciamo stare. Amici di Val d'Aosta, non ascoltate Ciruzzo. Per il momento lasciamo stare Ciruzzo Tozzi, no? È meglio. Anche per oggi l'abbiamo sfangata, giusto, sì, Filippo? Anche oggi abbiamo sfangato. Abbiamo dato consigli illuminanti su come investire i propri risparmi. Ma non esagerare. Io chiuderei, no? Sì, con un velo pietoso. Sì, no? Molto pietoso. E ricordando i nostri contatti Facebook. Ricordiamoli, perché vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook. i fuori posto come noi, e se volete scriverci vi aspettiamo anche ai fuori posto @radio24.it, oppure lasciateci messaggi in segreteria allo 02 465 24 182, oppure mandateci sms whatsapp al 349 23 86 666. Io e Umberto Alezio vi aspettiamo lunedì mattina alle 10 con i fuori posto. Per oggi è tutto, ciao.